quindi per noi era quasi, anche per dire quando c'era qualche manifestazione sindacale, era quasi organica al quartiere questa roba, quindi ci vedeva, utilizzavamo gli stessi spazi, questo spazio che c'era, dove c'era stata la mensa, c'era una sala dove che facevamo le prime assemblee, facevamo lì perché ci sono state delle tensioni e ci veniva proibito di utilizzare gli spazi dell'azienda, allora li facevamo fuori con lo sciopero, si faceva la riunione, c'era una certa vivacità, insomma, non, erano molto utili queste cose, insomma, richiamavano anche l'attenzione del quartiere, anche delle altre aziende, insomma. Era poi così per tutte, perché poi una volta erano Panini, una volta erano altre.